viamo fuori, non ti seccare, mamma patrone, mamma patrone, non far restare. Senti, mio amico, guarda, ti dico, ma che t'ho fatto, che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, tu per tornare. Facciamo pace, prendi cosa quattro doppie. Oh, sentite, per questa volta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di seggiurre i miei pari con me le donne a forza di lanari. Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di fare quel che io ti dico, purché lasciami le donne. Lasciare le donne? Pazzo! Lasciare le donne! Sai che se son per me necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che stio. E avete cuore di ingannarle poi tutte? È tutto amore, chi ha una sola fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar non sanno il mio buon naturale, chi amano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più peligno. Orsù, cosa vorreste? Vedesti tu la cameriera di Don Elvira? Io no! Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Or io col devo tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro? A poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via! Signor, ti ha più ragione! Finiscila, non soffro posizioni! Oh, lati urbino, urbino, urbino, urbino, urbino. Sei il gran gonzo, ascolta bene, quando costei qui viene tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte circa teco condurla in altra parte. Ma signore, non più repliche, e se poi mi conosce, non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e latte qui, giudizio. Eccomi a voi. Vediamo che farà, che bel imbroglio. Dunque crea padrò, che i pioti miei abbiamo No. fin dalla finestra, forse dessa. Non ci salviamo, il cuor mi dice che domani dobbiamo. Qualcuno parla. Ferma qui. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fallo il masetto, chi va là? Non risponde, hanno scappa il muso. Chi va là? Il nome solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, masetto? Appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni. E prego, servo di Benedetto Cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con quest'oro per trucidarlo. Sbogatelle. Bravissimo masetto, anch'io con voi mulisco per parlerò quel birbo di padrone. Audite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino, lontano via di qua, no! Lontano, lontano via di qua. Se un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza, se sotto una finestra fai alla voi sentite, ferite, ferite, ferite, voi ferite. Il mio non sarà. In testa il gran cappello, con candidi pennacchi, e andava gran mantello. Spada al fianco gli ha, e spada al fianco gli ha, e spada al fianco gli ha, e spada al fianco gli ha, e spada al fianco gli ha. Se un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza, si sotto una finestra pare alla voce dite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, e tanti voi qua vadano, e gli altri vadano, e pian pianino cerchino, lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua. Andate, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. Io senta. Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo. Sicuro? E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle? No, no, voglio ammazzarlo, vuoi farlo in 100 brani. Hai buone armi? Aspetto. Prima questo moschetto, poi questa pistola. E poi? Non basta? E basta, certo! Or, prendi! Questo per il moschetto e questa per la pistola! Scemana! Taci, orgoccino! Questo per ammazzarlo e questo per farlo in brani! Villano, mascalzone, ceffo da cani! Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle e il petto! Oh, Dio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso! Cosa sta con? Nico il scellerato mi ruppe lo sei nervi. E poveretta me, chi? Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui. Fruttil, non te ne sio, che con questa tua pazza gelosia ci ridurresti a quanto brutto passo. Dove ti duole? Qui. E poi? Qui ancora, qui. E poi non ti duol altro? Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano. Via, via, non è gran mal se il resto è sano. Vientene me qualcosa, purché tu mi prometta d'essere mentiroso. Io ti guarirò. Caro il mio sposo. molte facci lume s'avvicina, via ben, stanno di un poco, finché da noi si scosti. Ma che crimine ha adorato mio sposo? Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' vedea se il lume c'ha lontano, come da costeio liberarmi, rimanti anima Oh! Corso vo fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi. prometto, così vuole dover, più tale affetto. Distrage i morti, non si odori. è più chiara nel giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. O appunto son due della notte, avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affare tra le forende e donne in fila. Se gli ha avuto il giudizio, Alvin vuole che io faccio precipizio. E adesso? Ehi, Leporello! Chi mi chiama? Non conosci il padrone? Oh, sì, lo conoscessi? Come Bilbo? Ah, siete voi? Scusate, cos'è stato? Per caccia il vostro qui quasi accoppato. Ben non era questo un onore per te. Signor Bellono, via via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire. Di tante storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare. Non esca il cerco. E c'è dubbio. Una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Vado presso, la prendo per la man, fuggir mi vuole. Dico poche parole, essa mi figlia, sai per chi? Non lo so. Per Leporello. Per me. Per te. Va bene. La mano sta ancora mi prende. Ancora meglio. Una carezza m'abbraccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora ma forse che era qualche tua bella. Maledetta, inganno profitto, non so come mi riconosce. Grido, sento gente a fuggire di mezzo e pronto pronto per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tanta indifferenza? Perché no? Ma se fosse così stata mia moglie... E meglio ancora! Che l'altro mondo che vi conosce a fondo. Tragico! Chi va là? Chi va là? Della luna. Leggi il libro! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, vi attendo la vendetta. Udiste, io tremo. Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo che l'armeco. Che pazzia! Ma vi parlo, o delirate che termini io. Ma vivo, ma che senta, e che voglia ballare. Or su, balla, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco. Piano, piano, signore, ora ubbidisco. Signor, il padron mio. scena questa? Oh, che scena questa? O c'è chi la testa? Vala che sei un buffone, vala che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che dice bandan, dice bandan, dice bandan. Testa e fa così, così. mi voglio divertir. E poi la presa in tavola, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Che spendo ai miei canali, io mi voglio divertir. Poi suonate amici cari, già che spendo ai miei canali, io mi voglio divertir. Barbaro appetito, che potumi già gigante, mi fa proprio disvenire, mi fa proprio disvenire. Nel vedere i miei bocconi, mi fa proprio disvenire, mi fa proprio disvenire. Ah, che barbaro appetito, che potumi da gigante, nel vedere i miei bocconi, mi fa proprio disferire, disferire. Ah, che barbaro appetito, mi fa proprio disferire. Che bocconi da gigante, mi fa proprio disferire, mi fa proprio disferire, mi fa proprio disferire. Piazzo! Servo! E viva noi litiganti, versa il vino. Piano voi mio Dio, sta mangiando quel marraro, finge o di non capire. Questa poi la colosso purtroppo. Oh, ti piace, mangia con me. Questo ti parlo, bene ti parlo, e se tu vedi ti dico. Viva il femmine, viva il bambino, sostenne gloria tua umanità, sostenne gloria tua umanità. Oh. Yeah. passo, fermati passo, giusto là sotto, vedi il gran botto, giusto là il diavolo, ferma tu sole, che sei sto, che ruene il vento. Via a trovar Paco.